andando bene. Montevaggio, ma così bene. Da nebbia che vede, nebbia, e se che vendo forte che già fine. Sì, già rimane in Chivi, Monteoro, mia madre è vecchia, già mi posso domani dal gas. Ma non disturba PMR il televisore, no? Cosa? Ho detto, questa frequenza non disturba il televisore. Disturba il televisore? Non te vado a disturbare. Pensavo disturbasse. No, assolutamente no, impossibile. Luca Gagarella, malato. Via che è successo stamattina, Lu, ero provando a togliere il master con la gabbia, quella roba lì, per metterla dentro. Oh, è stato buco beccia, gli rimane in chi? No, e come fai? Quello non l'hai coperto, no? Sì, gli ho messo la busta, quella che ti ho detto. Dove c'è il cuscinetto reggispinta, tutto. Ho messo una busta di quelle nere, grosse, di mondezza, e poi l'ho nastrata da una parte all'altra. E beh, so si rovina. Chiave, Luca Maglio! Ehi, la gabbia già è in acciaio ossidabile, mi va tenuta. Però il cuscinetto reggispinta si riempie d'acqua, è un casino, poi non gira più. Carta. Allù! Oh, dimmi! Ah, già ci sei. Piove, diluvia. Aspetta un attimino, mi hanno dato due frequenze, aspetta. Cosa, Lu? Che gli hanno dato due frequenze. No, ma frequenze interessanti da poter ascoltare qualcheduno. Ma, saranno frequenze di film hard, come in Tabai Daed. Luca, Tinto Brass. Cazzo, Luca, Tinto Brass. E la Sadi mi ha mandato l'audio su WhatsApp. Lu, cattami che ce l'ha! La cosa, Monella in televisione! Monella c'è, carta e bicicletta, bagabona! Che maniaco che... Eh beh, Monella con cosa? Chi è? Scena Grandi, boh. Non ricordo, scia, Uzzinoggia. Ne ha fatto poco film con Tito Brass. Luca voleva fare un meccanico della bicicletta, ma le è andata male. Luca Maglio! Claro, hanno dato la giava inglese invece a Luca. Luca, favore! Ma non è brillante, visto? Luca, con il gallo! Adesso la metto diritta e la faccio riempire d'acqua, ecco, così impari. E la tua? No, c'è bene a chi si levano. Vari goci, vari dappi. Vari dappi e la casarella. No, claro, io tolgo il tappo di su, la faccio riempire d'acqua e poi le rimetto il tappo. Così impara, Luca. Te qua, fuffia! Se di ogni ambasciata leva, ma dimmi tu. Allucinante. Mia figlia sta andando al lavoro, ma i sci a luna canutti. Bebe. Andiamo e andiamo. È un bel giramento di guglioni, eh. Vabbè, bobolo. Vabbè, mi ha tinto, mi. Busoco. Preparando la batta al forno, vero, mi. La batta al forno sei preparando. Già va bene, già va bene. E io sono con cuoco, finito, mi. Finirà. Sei solo finito e bu. Bella. A sentire, Antonio Bombo, cuoco finito, eh. Cazzo dentro di Graziano. Eia. No, E canta cucinare. Ocla. Lui. E Arinotti già ha fatto l'asinello, Graziano. Mamma mia. Ancora lagrimendi, eh. Sì, già l'ho sentito il coso. Buona, le crotti, vabbè, poi già ci... Già te l'ho già detto, sei nato per me. La tua compagna a cucinare, santo? Papà, sì. So cucinare io e lei, siamo a posto in chissà a casa. Bene, mela, e anche qua siamo in tre. Io, mia moglie e mia figlia. Ce la caviamo bene. E tu, Antonello, cucinare sai? Antonello Magone. Sa cucinare, tu sa brimpulli e bu. E tu sa sappai, bu. Gargane, tu cucinare sai? Gargane. Un asso, me. Caffè e latte, sa fai bu. La saudì. Io ho imparato da mia nonna, da mia madre, da mio padre che sa cucinare. Avevo imparato da loro. E poi ho portato la mia pratica. Non rimanga mano in mano, no, io so fare quasi tutte le cose di casa pure. se lì capita che non sta bene, faccio io. Anch'io. Tutto so fare. Bisogna arrangiarsi a tu, sennò è un casino. Non è che se uno sta male, poi come fai? Cazzo a piedi rimani. Beh, se tua moglie non sta zì, beh, cosa, cari, fate le cose, cioè. Devi va per fotta tu. Ocla! Lavora in due. Ehi! E se c'è... Aspetta. Se sono all'altezza, in tre. Allora, se parlo di Sant'Antonio, la vostra cugina, a che ha fatto la domanda andata a nudi e crudi? Uscì, tu. No, già. Me la cavo abbastanza bene. So che va un po' con tutto. So che va i piatti, so che cucina, so che... Quando mi si bongo so che la va in terra, cioè so che va un po' di tutto. No, già. Non c'è problema. Ma ti sei muovendo a tu, io butto a cosa a tratti. Meglio che sapessi arrangiare perché... Senti, basso. Sì, che mi sei ingrugliorente, che... Basso lo senti. E a volte mi scompare, boh. Proprio basso, sembra come che si stia spostando da una camera all'altra. Sentito hai, Anto, che Luca ogni tanto ti perde. Ehi, deve essere un fermentino, là sì. Insomma, non è che l'ascolto forte, ecco. Boh, a lui è col gommino. Ehi, col gommino è Antonio, allora. Ehi, Anto a 30 di... Ecco, fatti una direttiva con gli spaghetti. Beh, fermo una cosa. Non posso parlare. Hai non che sta giù via stato la cosa, la boomerang, quella grande. Capito? Arrivo subito. Possiamo mettere una e due di antenna. Anche per questo apparecchio qua. A tu. Buone a tu. Ha detto 5 di bonito un pepperoni prima dell'antenna. No, chi se non me lo bongo in chivi, no? Che ti fa effetto? Oh, babuccio. Cinco, lo senti Antonio? Sì, a voi, allora come ti guri, Anto, se ti sei buono isso, che se lo bevavano dalla brisa, Ma no, prima tu, dopo vi penso io. Io non mi senti che l'ho portato io. Ma che? Niente. Che cazzo tu mi senti Tonino a San Camillo? Già su quel cucinare, amarraggio, camisa, sto pulendo le lumache, lumaccone, domani passa al forno e poi faccio anche la torta. Cos'è Lu? Mi vuoi dare una torta per l'antenna? Ehi, va bene, lo stesso, al cioccolato però. Se te la puoi con i bisacchi o leggo questo? Allora io prendo il radiale dell'antenna e mi gratto il sederino. Sederino? Oddio, sederone! Così tu quando la piazzi ti sporchi tutte le mani. Va bene, rimango in ascolto, proseguite, ciao. Ecco per me un attimino che farà giù su! A vedere come ti andando la goccia! Se cos'è? Dammi le sue io su dei cutacchi. Dici cos'è in carriera tu? Sul piano di giù. Quindi devo andare giù per vedere com'è la situazione. Se pare che ricordi in carriera. C'ho la camera da letto su. E la cucina giù, capito? Un po' che è strano c'è appartamento. Pari MacGyver. Già va bene a tu. Ottimo per la truppa. Questo ho trovato, e me ne ha fatto un cazzo, già sto bene. Meglio di intindir rompiballe. Cosa vuoi dire a tu? A chi cazzi, quando cazzi la tirossi, a chi vera Luca? Così è? No, voi non c'entrate niente. È un altro discorso casalingo, Voi non c'entrate niente. Io pensavo che da quando Luca si era trasferito alla Te Dolce, giustamente tu hai detto rompi il balle, allora io ho collegato, capito? No, è una cosa familiare. È una cosa... Sto troppo bene a casa mia. Faccio quello che voglio, esco quando voglio. Facciamo tutto quello che vogliamo. Fermo un casino come in tiburimo. Si sta da Dio. Ognuno a casa sua. Era ora, Anto, era ora. E beh, mi pare ora, cosa resistente, alla visione andati in, boh. No, sono in acqua. Adesso ci bagna tutta l'antenna. Cazzo, va, mi si infonde tutta l'antenna, ok. Boh, boh. Andiamo, vai, andiamo. E comunque già va bene anche questa. Poi quando sarà sul tetto sarà ancora più, molto più alta, almeno di 4-5 metri, a voglia, sì, sì. Sì, anch'io questa l'ho piazzata a provvisoria, poi appena cambia il tempo me la sistemo bene. Ma già l'hai vulcanizzata la 510, l'hai piazzata così, mi ci viene a levami. Ma se scherzi, la zetta di voce la foto, sennò tu non mi gridi. Ma se scherzi, ho ciappi le pesci. Cazzo, Lu, abbiate che si riuscito a punire l'appoggio, si riempie d'acqua, sennò però di nuovo si marcisce lo stubo interno. Perché quello stub lì si è sicuramente marcito, perché dall'innesto che io ho fatto è entrata acqua, forse da sopra, dal tappo, capito? È entrata acqua, per quello, se no è perfetta quell'antenna. Comunque adesso se l'hai messa a posto è perfetta lo stesso. Ehi, guardati la foto. Lo vedi? Il vulcanizzante nel primo elemento, lo vedi? Guardando sto vulcanizzante nel primo elemento. Ah, sì, sì, sì. Bravo. Ci vede più ricoccideva. Perché è nel vetro. Sono dentro in camera, capito? Che si è baciata leva? Tu l'avevi detto che pioveva nel pomeriggio, va. La mazza che nera e varia. Per due sabato e domenica si arrada in casa, ragazzi. Pucci. Invece abiti domani. Domani è così, Lu, domani è così. Sembra così, boh, non lo so. Lunedì è di nuovo così. Ma adesso inizia, adesso. Adesso ci tocca rimanere a casa, capito? Dunque, domani, mette qualcosina, ma proprio poca roba alle 10. Dura pochissimo, infatti. Poi riprende dalle 3. Riprende dalle 3 fino alle 2 del mattino. Però domani mattina. No, niente acqua. Niente, c'è quel pochino, una passata alle 10. E allora va bene. Allora, quando smette, salgo e mi tiro sull'antenna. Aggiungo un palato, un vermentino, cazzo, alla doc. Alle gradini, non lo buonire, coniglio, no. Metti ruddù. Ah, chi sono buono, il robollo, antù. Non dappo, sei buono, quella poco, Sena, a dare una sfumatura quando fare i gambari. Invece te la sedente tu la sfumatura. Boh boh. Unia tante fezza. Certo, noi che dici ci narrico un po' Gallucca. Di Vermentino siciliano. Senza poi Antonio, la tua vita sta sempre ridenti. Affermi. Ho fatto da poi. Di venire a fare l'amore, buru. Boh boh. Ah, esetta quando arrivi. Scusami, basinata, no, Anto? Vabbè, chi su burucando sano, so cosano. Lenizi, metti la testa dentro al forno. Sì, Anto sano. Io non ti ho mai visto cotto, quindi. Non sei uno di quelli che bevino. Ah, se te lo posso vedere io. Adesso sei paro io, se figlio del cellulare. Ocla. Lu. Anche prima era in occhi da rubabbo. Se no, lo sa che troncava l'antenna della china. Ah, così, E quindi no, non ciullava. La cosa secondo te si è comprato il cantenna, proprio il cantenna minoretta. E Luca Magone, vabbè. Magone! Sputo, dai come giunta la rompicuglioni. Purtroppo sono successe delle cose che ti racconto. Ah, no, con babbo, già ho capito con chi. Mi racconto una sativa, cosa è successo? La vanno manda. Fuoco e fiamme alla console. Sai quando è che riprende la pioggia, Ocla? Poi lunedì prossimo. Cosa lunedì prossimo? Lunedì prossimo la pioggia riprende dalle 7 tutto il giorno e tutta la notte. Vabbè, mi interessa che se piove non me ne affutti nulla, io ho paura dei temporali sempre, capito? Oh, adesso di meno, C'è meno ferro sul tetto, c'è più alluminio che ferro. Il problema è, ricordati, delle direttive del master. Il master in ferro, quello è una cosa allucinante. La gabbia, tutta quella cosa lì, capito? Adesso, antenna piccolina per le VEU. La mantova è in alluminio, l'altra è tutta in alluminio lo stesso, quindi non sono più preoccupato come prima, capito? Allora. Ehi, Emanuele. Mi senti adesso? Sono qua in via Pascoli. Io sì che ti sento. Claudio. Alla grande. Sono già nel portatile, via Pascoli. Alla grande arrivi. Una cannonata e l'antenna. Sono contentissimo, adesso la tiriamo leggermente più su e siamo a posto. Andate, dai, riprendete il pulso. Cos'è Bolso, l'antenna alla P50? l'antenna alla P50 a pulso. Ah no, no, arriva bene Emanuele, arriva bene. Arrivate tutti bene. Sono contentissimo. No, cacciata lì, non ho manco sollevato, neanche abbassato il palo, Lu. Quello che hai tirato su tu, ho allungato il braccio e l'ho entrata lì dentro, basta, e l'ho stretta. Strano io che so comunque su Druzio. Già, te la vendo io, un'antenna a te. No, ma arrivi bene anche tu, Anto, non c'è problema. Pocare tu, limitato, eh. Vabbè, cosa vuoi fare? Però, già va, cosa vuoi dire? Mi Luca già lo sa chi è questo apparecchio. Lo conosco bene, sì. Ed è una cannonata quell'apparecchio, Antù. È una cannonata. Ti stavo dicendo, poi il cavo cosa fai? Lo devi passare sia sopra, su che giù, Antù. Dal lucernaio l'ha giù passato. Appena appena i noghi. C'è il cavo fine. No, io ce l'ho qua. Ce l'ho proprio l'antenna io. Vedi già faccia. Capito hai? Non ne ho problemi, c'ho 5 metri di cavo, 5 metri 65 di cavo, ce l'ho proprio lì, ce l'ho, capito? Cioè, non è che io non ho tanti problemi per queste cose qua. Ehi, ma ti stavo dicendo, se ti metti l'antenna fuori per il PMR, se vuoi parlare da giù, capito? Quello ti sto dicendo, devi passarti un cavo giù oppure solo su lo metti? Casa me possa farmi da giù. Lo metto su. È perché la stazione del baracchino non ce l'ho qua. Non me ne faccio niente giù per mangiare, per guardarmi la televisione e altro. Se vuoi modulare, mi cedo qua. E altro, è in te. Cedo e modulo. Non ci vado giù. Io pensavo che quando facevi l'amore parlavi anche al baracchino. Cosa cazzo hai intendi di versi? Claudio mi ha detto che sei un coso, sì, un mandrillone. Già ne è buon Puglia. Tu non offendere un film con tinto. Raga, tinto. La tinta la devo passare. La tinta già una di che passata era un muro. No, cazzo di altro. Raga, tinto. No, che andavo a fare queste cose su tutto. Allora, mandrillone, che se non ci compresi quanto ne vado a attaccare il tuo virus, ho comprato un più 5 e mi hai dato lo cavo da attaccare, sia dentro, non c'è cavo, né dentro né fuori, non ho capito, scusa. Si più se mugna, è bello tu, cucuru, c'è callai. Babbo. Pare che mi ha piccola gabbessuria e modulo così un poco te, vabbè. Ma se abbiamo preficcato quello vermentino, a tu. Non gli fa niente, no. Clave, va andiamo a cena da... cosa ne dici? Da Antonio, perché va la bacca in forro. Ho visto tutti i noghi. Antonio non ha problemi, no. Antonio è ospitale. Un poco minore la casa, però già c'ho anche l'altro tavolino, quello che uso per il mixer. Già, rubunimo i noghi e via. Fermo l'armata Brancaleone. Ocla! Sì. Ci ho detto che noi potremmo mangiare pure 30 euro, non c'è problema. Allora, hai visto mansarda lo spazio che c'è? È bella quella mansarda. È bella per fare anche dei lavori così, sei tranquillo la domenica. Bricolage, antenne, tutto, bello. Sì. La mansarda c'hai, Cla? Sì, all'ultimo piano. sopra all'ultimo, dai. Ehi, l'ho messo tutto a posto, l'uomo, c'è la roba che ho buttato. Un mare di roba. Mi lasciavo montare quell'armadio che mi hanno dato. Praticamente ha traslocato una del quinto e mi ha detto, siamo qua, questa armadio non mi serve, se lo prende per campagna. Ho detto, no, campagna ho fomo, c'è tutto arredamento nuovo. Ho detto, se vuole lo portiamo su, se mi serve lo piazzo. E gliel'ho fatto mettere su, capito? E adesso devo spostare tutta quella roba che ho già messo a posto, piazzo quell'armadio e metto tutta la roba dentro. Almeno c'è ancora più spazio. Ma com'è? Come una seconda casa? No, non c'è abitabilità, non c'è abitabilità, però è abitabile al 100%. Sia chi ti tocchi il gabbo, allù. Chi è bello, cla, apri il balcone, pone la graviglia e si mangia i chibi, tutti canti col fermentino di Antonio. Sì, già ne abbiamo fatto i spuntini, su, non ce n'è problema. Però abbiamo portato tutta roba pronta, capito? Niente di particolare. Prima c'era un tavolo grande, hai visto, sono tutte le sedie messe da parte di quelle pieghevoli. Prima ne facevo un bel, poi non ha giovato più. Ma dico, ma si può modificare per essere abitabile o si può stare così? No, Anto, non te ne danno abitabilità, che è praticamente censita come soffitta, capito? Però è il punto più alto è Castro 4, il punto più basso è 3,50 m. È fatta a Mantovana, no? Un sottotetto, però è, cazzo, sono le finestre, c'è tutto. Manca il bagno e boh, c'è la luce, c'è, arriva l'acqua, c'è tutto. Ah, ho capito, è bella comunque, dai. E lì se c'hai, come si dice, se c'è qualcosa, si può fare spuntini, cose, un sacco di cose si possono fare. Che bello già, cavolo. Certo, se sarebbe stata mansarda sarebbe stata ancora meglio, però... Che andava a Romatesi. La mansarda da giudito è mansarda abitabile, solo che non c'è abitabilità. Mansarda abitabile al 100%, sono le finestre, c'è tutto. Capito? Cazzo, c'è 70 metri quadri. Cazzo! Un gabinetto, ove? No, c'è da fare il tramezzo e fare il bagno. C'è il coso, gli agganci, c'è tutto all'angolo mi dove c'è la roba mia, lì c'è il, non hai visto, c'è quel, c'è una finestrella, lì c'è il tubo della fogna, tutto, sale la cola montante, c'è lì, no? Sale il tubo dell'acqua, c'è la luce, c'è tutto, lì c'è la vita, Luca, c'è 70 metri quadri, un appartamento, lì fai il salone sotto, fai il soppalco, fai la camera da letto sopra, con la scala in legno, c'è un progetto allucinante, ma ci vuole un sacco di soldi. Beddu, a me piacciono le mansarde. Avanti, Lu! Ti piace anche i sobbasci, no? E tu, raccusa, i chivi. Ma rasulti, la bacche bacia, no? E Ziccara, stai attenta a non sbattere la testa, inchinati. E vabbè, ma io che sempre un gabbo mi cudo. E per forza, tutti quei gabbo, si fanno un letto con i molli ancora, e quando brinchi, puoi cacciare quanti sei. No, da me non la tocchi la testa, no, Anto, vi vuoi ricare a battucare un gabbo, no, lui. Sto per renderti conto com'è. Ehi, guarda, ti ho mandato un messaggio, Anto, nel telefono. Ehi, mi da sentare una mezz'oretta, Clara, ci sentiamo dopo, devo uscire un attimo. Ehi, dai, fate. Tu vai a controllare un bollo, già sono qua io, dai. Sentiamo dopo, ragazzi, lasciate tutto acceso. Ehi, a cappa! Dai, già sono qua, fate pure, io sono qua. Ehi, mi sono sceso. Allora, si ma come arrivo qua, bene o male? Bene. Come so palco, dai. Cosa c'è, Manuè? Manuè, tu sei? Ehi, superstar! Buonasera, Miracle! Chi è? Chi è a voce? Chi è? Devi farti divertire! E beh, Cla! Chi è? Chi ha voci? Scaldale! Oh, vè una voce, vè, boh. Lascia fugendi. Vuoi dire, ho secchio nella gola. Oh, lascia fugendi, gente giù. Aiuto, aiuto. Luca, Rocavella. Stavo facendo la rappresentazione. Sono anche DJ. Bombolino, mi senti? Bombolino, ma non lo senti a... a Luca? Ma già non credo che ne tengo. Luca, è qua, vicino a casa di tua suocera. Ah, vabbè, dai, non lo sapevo. Un casino, la vita è un casino. Bella giornata oggi di merda. Sì, da cocco la lucina, veni da uno molto, ma fegu di molto mi. Me la ammazzendi, pure buttato dentro la pattumiera. E sentivo sempre l'odore, però non capivo, vabbè, dopo ci sono arrivato, che mi lanciava la pompa da Iosu. Mamma mia, che fiago i fazzi. Vabbè, tanto, tu non lavori il sabato, invece lei sì. Tanto. Dimmi tutto. Beh, dottor, sabato sera non lavori, lei sì. Tra un po' che arrivi. Non ho capito, cosa hai detto? Ah, fai bene. Fai bene. Ok. Oramai puoi fare su che te biazzi, non ti dice niente nessuno a tu. Ecco, che non posso andare a mangiare con tutti i miei magazzi, non va di non per te mi visto. Se non è detti, non è detti io qua. Perché no, entra niente a posto, che si fa le cose. E vabbè, alle 3, alle 4 di mattina. Vabbè, a futtidini. Adesso sei a casa tua e fai quello che ti piace. Bianco, per me un attimo, arrivo subito, eh. Sono qua, Lu. Sì, che devo fare uno spostamento di una radio, un attimo. Che devo spegnere per poterla spostare. Già accendo subito. Eia. Bobolino, Bobolino, dove sei tu? Non so dove è andato. Mi ha abbassato la leva, crocro. Sta piovendo un bel. Stamattina mi sono alzato, ho girato un'occhiata all'antenna, visto che era bagnata, là. Stazionaria a 3. Ma perché lì entra acqua, lui? Entra acqua, cazzo, è un casino. Vabbè, c'è anche lo stabolo in mezzo ai piedi, se non ci fosse stato lo stabolo sarei aperto anch'io. Mi avete sentito bene anche. Sì, ma ci arrivi bene, lui, non ce n'è problema. Ha voglia che arrivi bene, a futtidini, tanto ci sentiamo tutti, non ce n'è problema, non dobbiamo fare le gare qua. Basta che ci sentiamo, va bene. Ma la boomerang è, non è omnidirezionale, La boomerang devi radialino, quello che è in verticale, 45 gradi, quello lo devi puntare, è quello che fa uscire l'antenna, capito? Te ci dici omnidirezionale? Sì. O mi appuntami nel culo. La brittella. Allora, esempio quei cazzati. Quel radiale devi cercare di metterlo in una posizione dove irradia bene, altrimenti non funziona l'antenna. Per quello ti ho detto una mini Grand Prix, metti sul radialino, tiri su un palo di 2 metri, te lo do io, senza essere né telescopico né niente, l'attacchi alla ringhiera, ribunimo 2 cavallotti e tu sei a posto. Sì, dai, Claudio, ci organizziamo, vieni tu, così facciamo tutto, dai, così siamo più tranquilli, dai, va bene. Ehi, Aluto, lo faccio io, non c'è problema. Sono sempre libero io, non ho problemi, capito? Sì, magari una mattina che sono libero io, ci facciamo uno stato, tanto Maria non c'è, che lavoro, e facciamo quello che dobbiamo fare. Certo, e non ci disturba nessuno, facciamo un capolavoro, porto tutto e lo facciamo. Nessuno, ma la mattina lì non c'è mai, perché lavora, capito? E lì non va bene, claro, non va bene, infatti ci tu buon baristano questa antenna che abbia almeno 1 e 2, 1 e 3, proprio a rosso adesso proprio a, forse anche oltre il rosso, se accendo il rosso è oltre. Perché vuol dire che entra acqua, Lu, non fa bene, non fa bene, ti crea problemi. Infatti. Ehi, allora, ci organizziamo. Per il momento a casa già sono a posto, poi il tempo... Adesso ne parlerà il prossimo anno, buttarla giù l'antenna, chissà non ve la posso. E poi come mi aveva detto Roberto Quadrato, mi faceva le staffe tipo le tue, quelle che c'hai adesso. Ah, quelle che ha fatto Fabrizio, quelle sono eterne. Ah, Fabrizio le costruisce? Sì, quelle me le ha fatte lui. Prima di montare il sistema ho comprato tutto da lui, me le ha fatte lui. Erano le sue quelle, capito? Ah, pensavo le vendessero. No, quelle le ha costruite lui, non hai visto come sono fatte, con la piastra, quelle le ha costruite lui. Ma vedo due tirafondi, quattro tirafondi da 20 cm diventano un muro. Cosa vuoi che sia? Nuda, eh. Già va bene, Cla. Va bene, va bene. Mi stavo cucinando le lumache, me le sto preparando per domani, a chi se no. Magari ne muore qualche altro ed è un casino, dai. No. Giusto pamba e pamarina, ma sono qua, fai che già sono qua io. E tanto mi sto sbalvando un po', poi vado a farmi una doccia qua, che ne ha più bisogno. Sì, conferma, sono qua. Allora fammi la cartarella. Oh yeah. Luca Cagarella. Luca Famone. Attento Mario. Luca Cecilia. Ti vuole male Cecilia a te, oi oi oi, guarda sta che ce ne ho sento. Sono tanto grossa, che bello. Dove sei Antu? Antonio, dove sei? Famoletta, dove sei? Sì, dimmelo tu, Lu. No, non era lui. Era il due. E il cielo che si soscurò. Adesso con chi antenna c'è, Lu? Sempre con la 510, sempre con quella, K. Già va bene, già va bene. No, non c'è sta a collegare la direttiva adesso. E vai, esci. Però questo è l'UV5, Oh, cla. L'UV5 qual è? Quello... il Voxo, no? No, il Baofeng è questo, Allora c'ha meno watti. Ti ho mandato la foto. Sì, già l'ho visto, avevo bisogno di voce a mandarmi la foto. Già lo so, Google, ma c'ha meno watti del Voxo. Perché c'hai un segnale in meno. E beh, riparato là il Voxo, Lu. Oh, no, un casino, Lu. Non se può perché le sue alette sono... come l'ho toccate, si sono tagliate a filo, capito? Sì che le ho tolte, ma ricostruirle uguali è un casotto, anche perché poi quando ci infili la radio devo essere perfetti al millimetro, capito? E tu dalla a me, le costruisco io. Ma cosa costruisci tu e fine, che non so solo usagliati, che si so precisione assoluta nel collegamento alla radio poi. Comunque c'è il caricabatterie sui BMW, mica. Là, basta comprartelo, 36 euro costa, 35, boh. 10 euro costa in Cina, Voxo, originale. E no, chi non usa, 25, 20, 30. Sì, già comprato, tutto a posto. Ah, l'hai già comprato, Cla? Sì, fa tutto Luca. Ci deve tutto, se il gruppo legge, ma fa c'è a me. Monello. E te zio Rugutta, Lu, qui costa 21, 25, vai. Adesso vediamo più in là, vediamo un po' una cosa più seria, là. Com'è me? Com'è te? Sei serio tu? Famone. Kappa. No, l'ho venduto a Luca, no, me ne frega niente. Se lo deni Edo si arrangia, poi si vedrà. Lo metto a caricare un po', vado a... dammi una sciacquata dopo. Sì, già sono qua. Andiamo. Luca, ma il 27 non puoi entrare. Oh, Gargane. Luca, ma non puoi parlare il 27 tu. Gargane. Ehi. Aggiunto, ma non puoi parlare il 27. Ah? Ah, Gio Maria, sì. Ah, Luca, stavo dicendo, come me non può parlare il 27, ha detto va stazionarie. Ah, faccio. No, io 27 sono stazionario. e non posso parlarci là. Se ce n'è un altro che c'è un antennino e con quello non disturbo, e per cui qualche volta me ne passo là. Lì già non disturbo, capito? Ma qua disturbo. E vabbè. Per quello che lo uso io già va bene, va. Ehi, noi siamo sempre qua, a volte andiamo sul 23, fare due chiacchiere, a volte al 10, insomma siamo in hobby, siamo da. Bella giornata, bellissima, hai visto? Mi è abbassata l'eva. Lasciala fare, l'acqua fa bene. Anche da voi dovete farsi dirsi, no? Che? Dai, come, già è in ritardo. A vanno la fine di più, però lasciamo da fare, cosa vuoi fare? Cosa? Guarda, le macchine sono piene, così che dovrebbe passare, però siamo già in tempo di levide, per cui lasciamo da fare, dai. Sì, già fa bene infatti per la campagna. Non ce n'è problema. E già ne fa un bel quest'anno di acqua. Vedrai tu Gio Mari l'acqua che fa. Ehi, ehi. E a Manuele è sentito là? Sì, era qua poco fa, poi è uscito, forse è andato dal medico. Boh, non lo so, era in via Pascoli col portatilino. Ehi, allora, già acceso qua in caso mai che entra. Buon proseguimento, ecco, ci sentiamo. Ciao Gio Mari, a dopo, già è acceso anche qua, ciao. Beh, Catare, scotto la chito cuccoi tu. Gio Mari. Impegnato la Gio Maria, già sono io. Vabbè qua, cazzo, è la vita, Fendi. Oh, lì da te un bel? Sì, è un bel. Lo so. Vabbè, no, che cazzo si allaga lui da sino. E come mai? Non è a pendenza. È a pendenza, si va a terra. Si fa la posta, capito? Aspetta un attimo qua. Sì, già sono qua io, sì. Qua so. Sì, sigla. Sì, qua so. E Luca Frippe. Si avesse allontanato, mi ha detto un attimino, ti attornava subito. C'era anche Gio Maria, però stava facendo cosa. Ho capito. Cazzo, da portarti, stavamo parlando, mio qua. Come mi ascoltavi prima? Sì, mi aprivi bene lo squeccio. Il segnale non ce n'era, ma arrivavi benissimo alla grande. Va bene, va bene. È una gamonada. E tu mi ascolti bene? Ehi, a voglia. Oh, Cla, io mi sto facendo la torta adesso, eh? Sono già lavato, dai, ma che non ho finito di cucinare, adesso mi preparo la torta di mele. Ehi, Alu, va bene, siamo qua. E chi c'era ieri notte, Manuel? Tu e Tonino e Boh? E allora, io ero con Baltacchi, stagionato nel letto. E fa, adesso per la mano il messaggio a Claudio, però, boh, non l'ha letto. Non te l'ha letto, ma io già l'ho risposto, ho detto che non ne avevo PMR. Piazzata stamattina, capito? Dicevo quella piccolina e l'ho piazzata, ma a un metro dal tetto, vabbè, io sono in alto, non ce n'è problema, però la devo mettere meglio, là. Cazzo, c'è 40 metri in asso. Infatti, però c'è un metro di tubo. Vuole tirato su il tubo, capito? Stamattina il tempo era brutto, non mi sono fidato a mettermi a fare lavori, eccetera. Abbiamo bugato tutto, una pulizia bellissima, sono qua così contento. Non vuoi ferraglia, perché troppo ferro c'era. È fatto bene. Poi cos'è il tubo? Ne metti 2,50 m, va bene. Di tubo per mettere quella la 50. Ehi, 2,50 m, quindi è 2 metri attaccato al muro e 1 metro che esci dal muro. Sì, allora voglia. Bah, ti ho detto che bassa, c'è tutto il cavo per terra, perché è lungo il cavo, perché era il cavo della 510, capito, quella che era in alto. Era 8 metri, quasi 7 metri in alto a 510, quindi a Romanco lo vento non li fate più nuda, assolutamente. Non la vedo più flettere, chi se non flettero? Non flettiamo, cazzo. Quanto è la 50 o 80? Sarà 80 un metro, ma funziona benissimo, per queste frequenze, per le UHF è una cannonata quell'antenna, per le V un po' meno, Ma per le tanto io non devo entrare da nessuna parte, sto qua e buh, quindi è ottima questa antenna per questa frequenza. Ah, già va bene, cazzo, ti sento benissimo, devo andare a scala anche. Sì, va bene, ma io ho fatto un po' di modifiche, un po' di cose, capito? Non c'ho manco l'altra radio grande, quella che usavo prima, l'820H, non ce l'ho più, l'ho data. Adesso non so, Tonino, non so, se rientrava. Vediamo se entra, siamo qua. C'ho il monitor anche sul 23. Non va nessuno? No, ci sono solo io in ascolto. Adesso che tempo. Buh. Tempo brutto, tempo brutto, però così si sta bene, cazzo. Puoi aprire la finestra, non hai paura di niente. L'acqua è, va bene. Il problema è quando c'è temporale, fulmini, tuoni, capito? Chi è lo vero? Quando va temporale, chi è lo vero? Hai paura, non puoi parlare, devi staccare tutto, è pericoloso, capito? Invece così, l'MLM mi sta piovendo leggero leggero, me ne ha futtinuto. E allora si è calmato un poco. E ancora con tutto basinata, e buh. E no, che ti ho detto, pensa a 12 minuti fa la vengo a bandeva. Quindi domani mattina alle 8:30 c'ho appuntamento con Luca, così le porto, che avevo preso un MB più 5 col cavo tutto staccato, nuovo nuovo mi, dentro la scatola. Me l'hanno venduto con il cosio, con il cavo spiralato, staccato da dentro e senza. E senza coso, senza collegamento, capito? Allora ho comprato un attacco a 4 nuovo, le do l'altro, MB più 4, più 5 che c'ho io, e me lo faccio fare uguale a Luca, così non perde tempo, lo collega direttamente, lo fa uguale a quello. E ce l'ho anche per l'Inuit, capito? Perché mi stavo usando il microfono che mi avevano prestato, così lo restituisco al proprietario con la speranza che entri ogni tanto, la mazza ne rivaria. Sì, poi c'è un'ia voglia, è sempre impignato, è una gana, vabbè, comunque magari le do l'input per rientrare di nuovo. Vabbè, dai, già va a entrare, deve essere evidentemente c'è altro da fare. No, aspetta, Giamari, ci sei? Che? A me sei, Giamari. Oi, dai, ma ehi, io ti sento. Beh. Cosa voleva stamattina Marino? Allora, no, non voleva nulla, è fatto che mi ha portato questi pirini della televisione che mi aveva modificati, però sono troppo lunghi e ti ho detto a te se si poteva fare tagliarli e farli buchi. No, ma la Mazzano sta vicino e facciamo e i raddori si gli da lì, un cavolo si chiama, e gli sono negozi io. Così che tutto va da in giro io. Cazzo, figurati. E vabbè, già non vedo il braccio, dai, già si sa male. Voi domani mattina, domenica, per cui io sono a casa e lo facciamo, capito? Così le taglio perché sono troppo lunghe, le fate troppo lunghe, tagliate due pezzi e fate i buchi dove abbiamo segnato col pennarello. Vabbè, facciamo domani mattina, va. Sta vicino domani mattina, va bene? Sì, verso le 9:30-10, va bene. Alle 9:30 di su, capito? Ok. Magari fa uno squillo prima, Emanuele. Cos'è, Giovanni? Ma fammi uno squillo se è ancora dormito. Alle 9:30 ti chiamo, dai. D'accordo allora, Emanuele. Come fa la questione? Come la questione come fa? Sono accannonato, se mi sente anche Claudio. Poco fa ho provato, mi sentiva anche Claudio, dai, dentro a casa. Vedo un po'. Ah, è bellino, dai, è bellino, che va bene, Certo, cosa vuoi prendere da un portatile? No, già andare, va benissimo. Che meglio che si va. 3B. Well... chissà cosa va, boh. Ma che Saturnino mi ha fatto, ma ne ha un altro Gio Maria, ha fatto sì, c'era. E se riesco a vendere il mio me lo prendo io. Gli è piaciuto il Saturnino. Fallo avvicinare. Se trova qualcuno aggiustarci, non è perché se. Ma cazzo, è bello veramente, poi specialmente che display grande che c'ha, è un bombon, capito? Beh, e vediamo poi, vai. Sì, cambia i colori, ho cambiato il colore, l'ho messo nero il display. Lo puoi fare rosso, blu, giallo. E infatti, c'ha tanti colori, anche bello, vabbè, quello che conta non è il colore, ma la radio che è quello che conta, capito? Bene Vicenzi, qual attimino suo sono? A Puglia, cazzo, Fonte Scala. Per forza, cioè, ti apro la finestra, la tocco in braccio, ci tocchiamo la mano. Cazzo, ci si vede l'antenne. Allora vero, la curraccia, sta proprio a rimanere dritto, sulla punta era proprio, era per 3 minuti e non riuscì a farsi proprio la punta, e poi si fermo, allora avevo pena, bisogna che era. Anche non avevo fatto una bella lascegata, Gio Mari. No, cazzo, peccato, è andato lì, ma ci sei la punta dell'antenna, cazzo, arrasi equilibrio in vari. Chi è che vuole entrare avanti? Gio Mari! Senta che, ciao Lu, buonasera. Mi qua, mi faccio il pasticcere. Cosa è vero, mi dirai che sei coccato, ma niente, no? No, mi sto facendo la torta di mela, Gio Mari. Tre die. Va bene. Toma noè. Per carità. Beh, mi sto guardando un film, cazzo. E così che fra poco vieni, così che si attacca un attrezzo, da chi va? A giudicatore, buro. L'attore era me, io e Marino, la Cristia. Ha messo una birra e la bevi un tuttore. E Rocky? No, lì al circo, giù. Ah, ho capito. Un attimo, Manuè. Ehi. Luca. Ehi, mi senti? Luca, quasi nulla. Ah, veramente? Quasi nulla. Quasi nulla. La mia cappella è questa. Ma non lo senti per niente, sì. Ma vai, è impossibile. Ehi, Fondo Scala, sì. Mi apri a parlare lo squash. Ma volete parlare del telefono di questa fotografia oppure il video? Con che antenna sei, Lu? Quella 510. In cima al palo carrellato. Qua stai arrivando. Te l'ho detto, un po' più basso dell'altra antenna, ma stai arrivando bene. Può essere Lu, perché le antenne lunghe in vicinanza è peggio. Ah, aspettate, datemi un minuto che cambio l'antenna io, Tu stai arrivando qua, Tino. Non sto arrivando io. Sì che stai arrivando, la grande. Qua sono con la direttiva, aspetta che metto la 510. Può darsi, perché tu sei un'altra polarizzazione, prova a vedere. Beh, ogni abbassata d'Eva. E qua! Ehi, tutta la gira, Nauci. Sì che vuole entrare avanti. Ecco qua, adesso sono la 510, mi ascolti? Io sì. Scala. Segnale Luca sempre lo stesso. Io ti ascolto benissimo, Otti, non c'è problema, con una e con l'altra. E allora lui, in vicinanza a quell'antenna devi stare attento, Non lo so, forse ha ragione Tino, in vicinanza è peggio dell'altra, perché più piccole sono, vi ho detto, in queste frequenze, in UHF soprattutto, e meglio è, capito? Me ne accorgo io che ho tolto la 510 e c'ho quella piccola e vi ascolto tutti molto, ma molto meglio. Oddio, aspetta che metto l'altra, quella che c'è sul tetto. Aspetta un attimino, fammi un passaggio... Con Allora, guarda, adesso c'è la 510 e adesso ti attacco la 200 che c'ho sul tetto, vediamo un po'. Ok, Claudio, fai un passaggio tu. Guarda, a vedere, io sto usando quella piccolina, la piccolina, tu a me mi arrivi benissimo, non lo so. Ma secondo me, come hai detto tuttino, in vicinanza l'antenna più grande è, peggio è. Va bene, adesso facendo un video, volevo andare tutti e due, e nel frattempo cambio l'antenna. Eia, va bene. Allora, adesso sono con quella che c'è sul tetto. Con che antenna sia adesso? Con la 200, quella c'è sul tetto. Il segnale è molto più alto, Lu. Vuol dire che è successo qualcosa nella 510. Sei fondo scala adesso. Luca, adesso fai un passaggio, ti ascolto con la direttiva che mi ha fatto tu, dai. E tu sei sempre fondo scala. Vedi un po', questa è quella che c'è sul tetto, OT. E la devo attaccare il rosmetro a quella là. Capito? Perché non so come sta funzionando. Va bene, vai, provati a... come mi ascolti con questa? Con questa sei fondo scala, sei un manettone, ti mando il video. E allora, però se ci abbia qualcosa, 510. Però non c'ho il rosmetro per le U, capito? Però dai, non deve caricare, perché i video sono troppo lunghi e la connessione è lenta. Comunque, è così come ho detto io. Sì, confermo, anche qua segnale fondo scala, con l'altra no. Vabbè, devo testarla, devo analizzarla qua, la 510, prima di metterla su e vedere un po' cosa c'ha. KK di rosmetro, va bene, dai, questa la stacco, che l'attacco al 706 di nuovo, che era attaccata lì. Vai, 510, va bene, 145 la l'ultima, questa... No, io l'ho tolta, la 510 che c'ha Luca gliel'ho data io, capito? La sta mettendo a posto perché si era rotta e insomma, però, ripeto, io in UHF sì, vi sento perché mi salva l'altezza, però con questa vi sento tutti molto, ma molto più forte perché è più corta. Ocla, scusa un attimino, mi hai sentito tu, mi hai sentito Antonello? Non ho capito, Tino, ce l'ho qua dietro, sì che c'è qualcosa di strano, capito? Quello che mi fa strano, che Tino manco mi sente qua dietro, sì che, non lo so. In distanza va meglio, però se, finché non la metto sotto il rosmetro, non lo so. Vabbè, dai, scusate, io cosa soffermo, sono su fuoco, cosa soffermo. Sono su brucia, dai, sono sempre X. Ehi, Addi, siamo qua quando vuoi. Ehi, ti ho capito, Lu, ma infatti, siccome l'abbiamo già fatte queste prove, in UHF la 510 non lavora molto bene. Lavora molto bene in VHF, mentre la XC30 e la XC300 lavorano molto meglio in UHF, capito? Sì, ma infatti prima di metterla sul tetto comunque la voglio analizzare lo stesso. È inutile mettere una cosa che poi c'ha magari... perché la riparazione va benissimo. Sicché... va bene. Adesso li metto un altro paio di fettine di quella roba lì, vicino qui al Baofeng, vedrai che va meglio. Adesso le affetto un paio di fettine di quella roba che mi hanno dato. Vedrai che esce meglio anche l'antenna. Allora le appendo all'antenna un paio di fettine. Cos'è come intesci? Tutto amplificato esci. Col Peppe che li mettono questi di Chiaramonte, questi amici di Chiaramonte, io grido. Oh yeah! KK, Luca, avanti! Anche Emanuele c'è! Manuele! Sì, un attimo, riprendo subito, ok. Ehi, già siamo qua. Ehi, questa di nuovo la 510, KK rosmetro. Ehi, Peppe, è entrato Luca, in buccia di gioco si ancora. Adulta di tu che fende, adulta della nonna, sì, ma c'è un abisso, Lu, c'è un abisso. Con quell'altra sei fondo scala, con questa sei 8, capito? C'è un abisso, ha ragione, perché sei lontano. In vicinanza ancora peggio. Infatti, però se sia così proprio. Però la voglio analizzare comunque per vedere cosa c'è. La duca, effendi. Andate a vedere la gioca. La torta alle lumache sta facendo buona. Ah, famone! Oh, sta buona passata di padora. Ciuppa, che ore sono? Cazzo, sei 20 sono già. A 7 mesi devo buttare un cane, speriamo che calmi. Boh. Sembrava essere pulendo invece. Boh. Allora, qui non c'è nessuno. Sul 10 non c'è nessuno. Andiamo. Già me la futti, non siamo qua. Se vogliamo passare al 23, passiamo al 23. Ascolta lui, ho sceso quei radialini, li vuoi, te li porto domani mattina. Ma gente! Via. Ma c'è qualcuno o che non vuole entrare, che prende l'umacquo, non lo so. Buono, è importante, però non esce nel radio. Ehi, Acla, va bene. Claudio, si sente? Sì, si sente. Gliel'ho detto anch'io se vuole entrare, non lo so, ogni tanto io vedo una portantina. Se vuole entrare è il benvenuto, siamo qua, non c'è problema. Perché me l'ha buttato, non se ne è accorta, me l'ha buttato in terra Sara. Me l'ha buttato in terra e ho dovuto mettere un pezzo di cosa alla batteria. Però già funziona, no? Sì, Anto, alla grande, non ti preoccupare, va bene. Ehi, a capo, dai, continuate che lo metto a caricare, che non può scarico. Ok? Ehi, aia, non problema, Anto, siamo qua, giusto per fare due chiacchiere. Visto che sta piovendo. Ho detto anch'io, avanti chi vuole entrare sul canale 7. Avanti. Vabbè, se vuoi entrare siamo qua, non c'è problema. Il canale di tutti. Ok. Lugarie, patendici. Oh, cosa ci vedi? A metà di buoni tutto dentro la gattarella rimpastumi. Già impastato, oggi mi ci ho messo la lattiglia. E te, ma che gandhi è sempre? Boh, è un pozzo, È sempre masticando, è vero Milu, ha ragione, eh. Ogni volta che ti stai sempre masticando. Ascolta, come l'hai girato con la paletta, quella frullana? Tu, l'impasto come l'hai girato con la paletta o quella frullana? Ma che gandhi, non ti può rispondere se no ti fai traverso. Sì, allucinante. Te ne parlo per me solitario, da quando si ne invece al pomeriggio, lo intendi, sempre con i mandibole andenti. Vai Schwarzenegger con gli mandipoli. E poi cosa mangia? Mangia bobbe e corne, patatini, nocciolini. Cazzati, dolci, da brilli, mi fa male la cittifella, mi fa male la cittifella. Si asciuga, si beh. Ma ci ha mangiato questo, è zaino. Se si abbia mangiato del zaino. Oh, lui è di buona forchetta, le piace mangiare. Bocchi dolci un bel. Ma devi stare attento, perché se c'è stifelli hanno di dura assai. Gliela tolgono. Tutto bigiato sempre, mi fa male cestifelle, io pensavo che c'è il calcolo della cestifelle. Continua a mangiare cazzati e a bibirra a fiumi. Poi attenzione, che mi sta facendo l'aria, mia figlia, che la birra non filtrata fa ancora più male della birra normale, della birra quella filtrata praticamente. Non hai visto come te la visi. Se no fui memo se ne andata a quattro anche per stare in tasca. Un imbuto, Mi dice che fa male. Fa male proprio allo stomaco. È meno gasata e tutto, però fa più male. Perché è cruda, capito? È cruda. Ma ha detto non va molto da noi. Da noi va molto gli altri tipi di birre. Però quella non è. Non la chiedono quasi mai. E oramai avrà quattro luppoli, la tre luppoli, per carità, al limone, già è buona quella limone, io l'ho assaggiata, cioè l'ho bevuta, è buona, d'estate però, d'inverno, vabbè che io d'inverno non ne vivo, però è buona. Ah, d'inverno è buona, da sta di vino ruglio, bello, fresco, ammazzare microbi, cosa a birra d'estate, a parte non ne bevo io, bevo poca. Va bene. Paese oggi ho fatto domanda da Mucciole a Luca. Oh, a vai da me. Già in forro la porta, va. Cazzo, metà l'ha fatta. Metà normale, metà al cioccolato, la massa, di ne varie. Famone! Ma già, tutta la gioca. Eia. Vai che bevendi, abba, e bevendi gojo, bevendi, buon fermo, cosa bevendi? Acce. Si fa vedere a noi, ma 30 per birra. La carità, non lo conosco. Ma si vede. Ah, il forno è. Lu, facci vedere quando è finito.